le baracchine basso. E pigli un cazzo se ti piazza in chili che è troppo basso. Vabbè, ma lui me le stacca, non c'è problema. Vuol dire che il televisore Bampagiudì non ha baito. Però come lo trovo in strada lo distruggo. Fatali, c'è una cosa che non può toccare il tecnico, non può toccare le antenne degli altri. Le tue non le può toccare, argosai. No, che sono in casa sua. Sono sopra le antenne di uno di quel palazzo, le mie antenne. Capito? Il tecnico ha detto che me le toglie lunedì. Se lui tocca le antenne gli sto chiamando i carabinieri, lo posso arrestare. Devi essere tu a toglierle, non lui. Chiamagli i carabinieri subito, quando lui sta andando a farle staccare, chiami i carabinieri e li fai venire. E denunci il tecnico. Infatti, lunedì sono lì dalle 8 del mattino, metto lì, come lui va a toccare le antenne, mi sto chiamando i carabinieri, non il Ducami. Perché se me le rompi me le paghi, che sono nuove quelle antenne. Non le devi staccare, tu gliele devi staccare, ecco cosa è. Devi salire insieme a lui a staccarle. E ti metto un altro palo. Ma non lì, non me le posso mettere lì, perché non è casa mia. E sul tetto mio io non ci posso salire. Capito la cosa del discorso? Che è tutto fradicio. Se io rompo qualcosa in quel tetto, mi va a imbagato sul tetto a me. Mi conveni? È una cosa proprio impossibile allora. Non lo so. Ma tali bici a tutti tornati in campagna, così hai risolto il problema. E allora, lo dici tu. Tore, ma se mi piazzo la parabola, vedo tutti i canali, così è. Sì, ma ti devi spendere 250 euro di decoder. Ah, cosa 250 euro? Non piglio chi su di Sky né nulla, no, me ne piglio uno così di decoder, proprio per pigliare segnali via satellite e bacia. Non mi interessa vedere Sky, a me né nulla. Mi interessa che vedo tutti i canali Rai, Mediaset, capito? Io sono andato a domandarlo e mi ha detto che costava, vabbè, che questo che ho chiesto io c'ho anche la registrazione, c'ha. No, e quello che ho visto da Media World costa sulle 120 euro costa. E mi prendo quello, uno normale me ne prendo, tanto per vedere, tanto c'ho la staffa pronta qua, già attaccata al muro dove c'è attaccata l'antenna al baracchino, l'attacco lì, attacco lo decoder e ma vai duro ma se si dà DV e quelle antenne me le metto in campagna che sono nuove, che sono del digitale terrestre, gli amplificatori e tutto. Ti stanno rendendo la vita proprio impossibile. Finza che non apro l'armadio e piglio il fusile a pompa e ne ammazzo qualcuno in hobby. Certo che andemmo. Dai, vabbè. Ma cos'è quella roba? È tornato! Chi è? E chi è? Alto 21, sto mangiando! Ahia, intendente! Mi ho chiamato 100 volte, tutti i lamenti che non ti chiamiamo! Oh, sto parlando al telefono, sto parlando di cose di lavoro! Vai! Di quanto è bello la banda CB, no scherzo! Mica sei qua, manemi! Ancora ci sei? Vieni. Ma te le immagini, questo Riccardino me ne dice sempre di tutti i colori. Non parli adesso, bello bello, non parli? Prima di tutto tu sei bello bello, tu sei re di cuocuoli e cosa c'è altro da dire? E ti hanno dato la corona, quindi sei certificato. Una scena. Ma io Natali, cosa ci andiamo a campagna tua? Ma perché? Devo piazzarmi le zanzariere e adesso ci avrò da fare in questi giorni perché mi dovrò piazzare la parabola. Adesso vediamo se riesco a prendere il segnale con quell'antenna che mi porta a Franco, la tutto di così. A chi sennò bisogna piazzare la parabola. Mi piazzo la parabola così vengo tutto a fanguarla. E quelle antenne TV me le metto, che sono nuove, me le metto in campagna, me le piazzo. Tolgo quelle vecchie e metto quelle nuove. Natalino! Oh! Io mi sono prenotato per prendere la Mantova 5. Ti sei prenotato? Ma ci vuole qualcuno che salga sul tetto, io ho un difetto alla gamba che mi fa male, non, qua non ci salgo neanche sul tetto. Se no già nella precesa c'è un bullone che mantiene l'ultimo stadio e ne scendono 6 metri d'antenna. Subito. Dopo gli altri 6 metri sono attaccati a due staffe belle e amprose. Ciao Eugenio! E Eugenio il genio! Ok, buonasera, e allora? E allora, in Vicenze! Ciao ciao, allora, buonasera! Sto andando a lavoro, cambio! Ehi, dai, Eugenio, fermano bene qua, dove sei? Ciao Eugenio! Dove sei, a Sassari? Sono alla voce, che sono qua per... Ah, Eugenio mi sente! E perché via Sassari non è a Porto Torres? Ah, sono capito, sono capito. Cavolo, ti ho chiamato 3 volte! E allora avrò un timpano spento, cosa ti posso dire? Ehi, va bene! Ciao Eugenio! Cosa vuoi? E a me non mi ascolti Eugenio, sto uscendo con un watt, 3 watt, dai! 3 watt sto uscendo! Sta pagando, va là, sono con le 3009, dai. E col microfono che ho elaborato io. Cava gava, anda bene. Natali, bene esce questo microfono. Sì, a Puglia. Io l'unica cosa che devo fare è alzarmi l'antenna. Ma se riesci a alzarmi l'antenna a Villa, se mi intendi neve tutti. L'antenna è buona, solo che ci vuole lo spazio per imbattire. Se non c'è spazio è normale che non esce come deve uscire. E almeno 2 metri bisogna salire almeno. E vedi se ascolto bene e se mi ricevono bene gli altri. Adesso non so Eugenio come mi sta ricevendo lì. Un attimo che il telefono. Cosa c'è Eugenio? Cambio per Porto Torres. L'ho malogato! Perché adesso di questo tempo devo farli girare e si sta andando bene l'omologato. Il microfono è un MP5. Cosa? Sì, Fusaro, me l'ha portato. Ehi, adesso ne ha 2 perché ne avevo ordinato uno da internet nel frattempo, adesso ne ha 2 uguali. Qui se ti occorre uno, Eugenio, te lo compri da lui. Anche per me. Ebbene, fatta ce l'hai a fare quei collegamenti dell'Uranus. Eugenio, il genio. Eugenio! Eugenio deve essere tratta a lavorare. Sicuramente. Sicuramente. Che mamma che lui è, che mamma che sia. Che barba che noia, che barba che noia, che barba che noia, che barba. Natalia, sì sì. Natalino di Sara, scuola. Tutti i fuggiti, sì. Giacomino. No, Giacomino. Non mi viene mai il nome, lo sai. Riccardino, vai. Scrivitelo lì già, con un fogliettino. Te lo scrivi, così non ti sbagli. Tu pensa a Cocciante, Riccardo Cocciante, Cocciante. Riccardo! Scorciante! Scocciante! Beh, aspetta un attimo, faccio una telefonata da Fusa. Ho detto bianco, mamma mia! Ciao, raga, raga! Ricordo è lui che faccio una telefonata, un secondo. Ehia, vabbè, tu, cosa stai facendo? Guarda, non te lo posso dire. Grazie, dici. Allora, faccio che tu caddo io. Vabbè, pure lui l'ha giocato in sangue. Vai tu, cosa vai, ogni mani vai. Ah, sono 118, faccio vada da un paio di infermiere. Sì, non posso altro che andare in civi brucchi. No, non vado a ripidare, in ambulanza. Ma te ne farei, se vai grazie ancora di più in ambulanza. Davvero. Che tempo brutto oggi, tempo brutto, troiaia, poveri noi, poveri, ma tempo bello quando arriva, che puoi andare al mare, tu non ci vai al mare, tu, quest'anno lo metti in a bagno il gommone. Se che ci tenne una di bella, pare che camminerai no, che va a punirla a posto. E cosa c'ha perché? Lo devo pulire tutto quanto e lo devo mettere in moto, cambiargli l'olio del piede e metterlo in moto. No, il tempo è brutto, me. Guarda, allora, oggi 22 gradi, domani 25 gradi, con il sole 10% di pioggia. Poi, domenica pioggia, temporale, 27 gradi. Poi lunedì 24, martedì 23. Martedì 23, mercoledì ha la sua pioggia, 20%, giovedì 23 gradi, cioè per andare va e più abbassano i gradi. E se è in giugno, hai compreso? Se va me ne fanno apposta, ti voglio arrigare no, che no, non me lo fa arrigare. Boh, che casino, ma... non se ne può più, non se ne può più. Infatti non se ne può più, no. Un po' questo virus c'è, un po' non c'è, per carità. Ma qua in Sardegna non ne abbiamo. Zero contagio e zero morti e zero tutto. Ma siccome Solina se vuole far venire la gente qua, speriamo con i controlli, speriamo. Ma i controlli agli aeroporti ci sono, nelle navi stanno mettendo altra gente con i cosi, poi ci vogliono i permessi per venire qua. Una specie di ti devi registrare per venire. Beh certo, per forza, io ho visto. Speriamo bene. Ciao, ti va se ne va, 14 giorni di degoso, ti va se ne va. Che non le dicano le cazzate, Tore, che il mio collega, questa milanese, ha detto che ha sbarcato dalla nave, non l'hanno misurato né febbre né nulla, non l'hanno né controllata né niente, non c'era nessun controllo. No, certo, andiamo, ma registrata sì almeno. Nulla, non hanno chiesto niente, nulla di nulla. Non ha fatto nulla lì, ha detto che qua è venuta in Sardegna normalmente come se non fosse successo niente. Che quando è sbarcata la nave non c'era nessun controllo. Una cliente nostra ce l'ha detto, capito, che è siciliana Stintino, e l'ha detto a questo mio collega. Questo mio collega l'ha detto a me parlandoci, capito? Sono tornato, ben di me. Eia. Allora cosa dicono a fare al telegiornale, non ho compreso io. Sono tutte cazzate che dicono, poi a fatti non fanno niente. Oh, sono dei burattini, allora sono solo dei burattini. Ci voleva, come aveva detto, Sorinas, ci voleva il documento che documentava che tu non avevi avuto mai niente. Io l'altro giorno sono andato all'ospedale, ne ho fatto tre di triage, per tre volte mi hanno contratto la febbre, prima pronto soccorso, poi hanno entrato all'ospedale e poi su in ortopedia. Vai tu, certo, dopo li devono controllare e non ne controllano. Infatti. E in più mi hanno fatto compilare un foglio, mi hanno fatto le domande e io dovevo rispondere. È stato in viaggio questo periodo, è stato a contatto con gente col coronavirus, ha avuto parenti che hanno avuto eccetera eccetera, tutte queste cose, e loro mettevano sì o no. Certo. Insomma, te ne vado un terzo grado. Poi con questo foglio lo devi presentare dove vai a fare le visite, se no non ti visita, non ti manderemo a entrare. Ui, certo, è meglio che me ne sto già lontano da ripidare io, è meglio. L'unica cosa è che il 1° luglio ho la visita diabetologica e il 22 devo andare a fare le analisi. Mi sa che anche io vado a fare le analisi adesso e prendo l'appuntamento. Dove la fai la visita di abitudine? Io vado a fare al Palazzo Rosa, la devo fare. Però non so, devo telefonare prima se ci devo andare o no, o se me l'hanno rinviata. Io sono andato l'altro giorno perché mi devo fare il piano terapeutico, cazzo, non mi hanno fatto salire. Mi ha detto di dire alla mia dottoressa di darmi lo stesso il xilo, perché il piano terapeutico me lo facevano quando andavo, devo prendere l'appuntamento adesso questo mese qua, devo prendere l'appuntamento, prima ha detto di fare le analisi e poi di prendere l'appuntamento. Adesso mi devo decidere perché questo periodo sto mangiando troppo, cazzo, se vado adesso mi crepa. No, io per fortuna il piano terapeutico me l'ho fatto il 3 marzo, me l'ho fatto. Ci vado in tempo a Giovanni. No, a me non me l'hanno fatto, però la dottoressa lo sa, che c'è, ci sono delle proroghe che ti devono dare il medicinale lo stesso. Il Xigdo è una medicina che devo prendere perché a base di metformina e la devo prenderla per forza, è una questione di vita o di morte, dici. Qual è quella pastiglia gialla? Ce l'ho anche io, ce li ho. Xigdo? Ce l'ho anche io quella pastiglia lì. Io prendo quella lì e la metformina la sera insieme. Non ne faccio iniezione la sera, la faccio per la notte e butto. La sera prendo quelli lì. Ce l'ho anche io quella pastiglia lì. Io prendo quella pastiglia e quella del colesterolo insieme. Sì, poi anche quella prendo, insomma, ne avrò 9 o 10 pastiglie da lì. No, io una giù. Una, quella lì, la gialla, la mattina. A pranzo c'ho quella bianca. E la sera c'ho quella gialla con quella colesterolo. Boh, non ha giallo. Io la mattina faccio l'iniezione, più prendo la Xigdo e il Triat per la tachicardia. Poi la sera prendo Xigdo e metto formina insieme. E la notte faccio l'iniezione per la notte. 40 unità per la notte, ed è quella lenta, quella che praticamente tutta la notte ti protegge, dai, per non fartela ammassare di notte. Infatti, a me me lo ricordo che queste qua agiscono dopo di un'ora e mezzo, agiscono. Ma qui c'era sempre regolare con le pastiglie? Adesso sì, adesso mi si è regolarizzata a 24. Ma a 124 mi si è messo. E la mattina quando ti alzi quanto ce l'hai? La mattina l'altro giorno l'ho controllata e ce l'avevo a 123. Mi è andata, senza digiuno. E allora è buono perché la notte sale solitamente. La notte arriva, vabbè, dipende a che livello ce l'hai poi il diabete, se ce l'hai tanti anni, se ce l'hai da poco. Io ce l'ho già quasi 20 anni il diabete. No, io ce l'ho dal 2011, ho cominciato a fare il coro dal 2011. E ce l'avrai 9 anni. Infatti 9 anni ce l'ho. Io ce l'ho 20 anni, infatti lo conto. Ma io se mangio poco mi si regolarizza bene a me, arriva a andare sotto. A volte mi scendeva a 72, allucinante, mi sentivo tre muroni. Poi mangiavo magari una frutta per riprendere. Però a volte mi mettevo in testa di non mangiare pane, né primo né pane, e così andava troppo bene, però adesso non ce la faccio, è più forte di me, forse sono nervoso per questione di lavoro e cose, e praticamente mangio per quello. No, a me quando sabato scorso mi si è abbassata, a 70 sì mi si è abbassata. Ma hai mangiato un pesce, dopo di 5 minuti mi si è alzato normale. E secondo la volta ti alza troppo, secondo quando te ne mangi ti alza troppo da bu. Non sembra come regolarti, vabbè. Io sono ingordo, vedo cazzo bui, i wafer di quelli, le coppe di cioccolato, un po' buono, mamma mia. Oh lupo. No tocchese, rugioccolato, no tocchese. Mia, dottor Natalino Milis. E capa capa. Gianni, sai quali devi mangiare il cioccolato? Eh? Quello fondente, amaro. Quello non ti fa nulla. E questo me l'ha detto il medico diabetologo. Quello amaro devi mangiare. Lo so, però a me amaro non mi piace, mi piace al latte e cioccolato. Mi fa fighissimo. No, io mi mangio chi so fondente, mangio, a me piace un bel. Oh, Natali! Oh! Stamattina mi sono comprato un maschio, come si chiama? Mecchino portoghese. Ma dal poliziotto? No, l'ho comprato da quattro zampetti. L'ho trovato un bel bello, mi è piaciuto e me l'ho preso. E in più mi ho preso da Davide, mi sono preso un tipo di agata, un'agata che diventa la testa rossa come il cardellino. Cazzo di idea, un bel bello, non fa solo la testa rossa, si fa rossa anche nel corpo. Sì, cappa. Invece io direi voglio cudifura, chi. Non funziona quell'antenna, no, che mi ha portato Franco. Oh, non piglia segnali. Ma cos'è, interna? Ehi. No, non vanno bene quelli di U. C'hanno un amplificatore, mi sa, si attacca alla corrente. Io già ce l'avevo in cameretta, in camera da letto, per vedersi il televisore con Liliana, ma non prendono bene. Devi stare regolando la faccenda ogni volta a lui. Che vuoi che te dica? È l'unica era parabola. Parabola col decoder. L'unica era parabola, decoder e si è a pusho. Almeno non devo salire sul tetto, capito? Eh sì, e infatti, così non sali. Solo che dovresti salire tu insieme al coso, e lui te le toglie davanti a te. Infatti, perché se le rompe mi ribaga chi vera amplificatore, due antenne nuovi. A chi sono nuovi gli si l'antenne? Sia l'amplificatore che le antenne. Vedi, quando viene e sali insieme a lui, sali. Perché io lo devi dire, se mi tocca le antenne, seguo già a mettere i carabinieri. Natali! Oh! E bisogna vedere però se nel piccolo prende, cazzo, quell'antenna lì. E quello non è che se ci butti su di poi non piglia. Pure in terra la boni, la barabolica, e piglia, ma se si è buntata a Rusatellite. E allora prenditi quella, se è sicuro che sia così, prenditi quella lì, così risolvi il problema. Ti stanno rovinando la vita difficile, si attaccheranno a qualche altra cosa adesso. No, che dopo che prendo la parabola, i soldi che mi hanno fatto spendere per la parabola li spendo anche per un kilowatt e loro televisione non ne vedono più. E ricudo pure a tutti e due. Come li trovo in strada li distruggo. Lascia per lì Natalia, lascia ribilli che è meglio. Si ammazzano la giura di Dodigi. E dai, quelli che ho minacciato io, tutti e due sono morti. Ci vengo io a casa tua. Bene, cudi un anatema, già, cazzo, ormai un greba ne si impiccano. Chi tu sa c'era una rubacola, dimmi cosa, che trattavo l'apparecchio. Disgraziato, mi stai disturbando il televisore, vaffanculo. Beh, buongiorno, ha detto, vai, è greba. E non si è piccato. Davvero, già lo so, quello che si è impiccato. E l'altro lo battesse. Accudo una bracema che poi si è negribato tutti e due. Subito, domani, prima di uno. No, ma devi essere vicino al Natalino, devi essere, se no non funziona. La mia è imbatte, perché c'è l'antenna. Te che andiamo muove. Ah no. Oh, via, provare. Ma perché uno non vive e lascia vivere? E uno ci ha messo la parabola già. E l'altro deve far salire il tecnico, aggiustargli le antenne e a togliere le mie. Capito? Anesi chi drugava, anesi chi sono i miei. A me un inquilino di lui che se n'è andato me l'aveva piazzato, io gliel'ho date pronte a piazzare nel palo. ma è da non andare per usci. Cos'è dei affittuari oppure è casa sua? voglia, un attimo Riccardì, il padrone di casa proprio mi ha denunciato a Cagliari e l'avranno detto cazzo se non si va a dire antenne va a zimare, perché se veniamo noi anche il verbale bello grosso gli facciamo, che quello lì è in regola, l'avranno detto. E allora stiamo attaccando l'altro perché non sanno a cosa attaccarsi. E per vendetta lo stanno facendo, e allora? Però io già me la metto la parabola e spenderò i soldi che me li stanno togliendo di bocca, maledetti. Però cazzo loro, la televisione se non si aggiustano le antenne non ne vedo. A parte che se busco un linearone me l'attacco proprio per non far vedere la televisione a loro, li devo ammazzare. Fatta io, una volta che loro se lui si mette a posto le antenne non gli fai più nulla. Cosa? Una volta che si mette a posto le antenne non gli fai più nulla, ecco cosa è. Ma che se le mette a posto, almeno io posso modulare tranquillo, senza rompermi le balle nessuno. Se l'hanno avvisato da acconciarsi le antenne, sta tranquillo che si deve acconciare poi fuzza. A me me l'avevano già detto loro, gli dica a quelli di metterci le antenne a posto, perché se interveniamo noi facciamo danno. E infatti, andiamo, bubu. Gianni. Ehi, sicuramente loro hanno tentato, no? Gli hanno detto che tu eri in regola e che erano loro che dopo aggiustare perché si arrivavano, gli mettevano la multa, allora ci sono attaccati ad un rischio. E si può furare antenne due. Solo che vi devi darci tu quando le devi smontare. Catalino, leggi il messaggio. A chi stai dicendo? A me. Un attimo, Riccardo. Vabbè, buona tarde, buona chi, come va la cosita, io. Chi è? Avanti. Il bianco per me, aspetta. Un attimo di bianco. Ah, è là. C'è qualcuno da fuori che sta chiamando. Avanti, chi chiama da fuori? È sparita adesso. Cazzo, per un attimo l'abbiamo sentito. Davvero. Attenzione collega, se ascolti la Sardegna che chiama, cambio. Avanti, avanti, avanti. E se vi do. Non è brutto, sì. Vediamo un po' se entra la Spagna davvero. Attento mio hermano delle Spagna, della Scusiali, della Sardegna, adelante. E l'operatore del Gianni doppio lui della città di Sassari che ti super cordializza, amico. Avanti mio hermano! È sparita, io continua. Ehi Gianni, io vi devo lasciare che devo uscire. Ci sentiamo un altro momento, da. Ok, ciao Gianni, ciao Natalino, e ciao Luca, ciao Riccardino e tutti gli altri ascoltoni. Ciao a tutti. Ciao dottore, alle prossime. Buonasera. Avanti Riccardino. Ehi, vado avanti e saluto anche io, non mi ricordo il QRZ, se si può farmi ricordare così saluto con il nominativo. Ciao dottore, alla prossima. Ok, allora scusa Tore se non mi ricordavo, mi dimentico sempre tutto. Ciao Tore, alla prossima. Avanti Natalino. Ehi, ciao Tore, alle prossime, dai. Avanti Gianni. Ehi, mi aspetto un attimo, devo andare al QTH piccolino. Capa capa. Natalino. Oh. E quindi cosa ci racconti di bello? Cosa hai fatto? Schifo, adesso mi vogliono parlare, togliere le antenne TV, perché io ce l'ho sul palo di un inquilino di loro, no? E me le vogliono far togliere, adesso devo andare a comprarmi la parabola e il decoder, così almeno non ne piazzo più sul tetto di antenne, c'ho la staffa qui pronta per la parabola e via, in mezz'ora è tutto fatto. Natali, venite a casa ed vattene in campagna che stai molto meglio, hai la mantova, non sei rinchiuso in casa che hai il prato, il giardino, stai, fai la bella vita in campagna. Sì, l'ho fatta per tanti anni la vita in campagna, da quando mi sono sposato e che sono qui. Ma con Concetta vi trasferite in campagna, state bene, altro che città. Lo so, un attimo che sto facendo una telefonata, Riccardino. Ehi, fai Natalie. Allora abbassa il volume che faccio una chiamata generale. Attenzione, CHD 27075. L'auto non buono, ecco. Aspetta, non ho capito, c'è la mia sorella a rompere le scatole. Cosa rivedo? Che vero? Ah, che sorella c'ha? È una sorella. Più piccola di te o più grande? Più piccola, almeno lei non domina. Ah, così, fa la palla anche a lì a Lombo. Così ti ruba il mestiere, da radioamatore. No. Non mi ruberà mai nessuno il mestiere. Se vuole lei parlerà dal garage, io parlo dentro al caldo, in camera. Riccardino. Cosa c'è Natalino? Ho visto una signorina a cavallo, non è che era tua sorella per caso, no? In quella strada lì, che stavo salendo in campagna stamattina che dovevo prendere cose. No, ma stamattina no. E comunque ho visto una tipa a cavallo, un cavallo marrone, chiaro, marron chiaro, dai. Ho capito, sì, è una che c'è a cavallo e alla rotatoria quella piccola. Capito, niente. Chi c'è rimasto comunque? Luca, tu e poi? E poi il poco male di Gianni. Ma Gianni è andato... vabbè. No, senti gli stranieri sotto. Anche forti sono. Vuoi la tarda che montavo ancora qui? Avevo molto perdonato, non avevo aiutato, ok. E c'è la cosa, mi dai idea? Avanti il break dalla Sardegna. Ho sentito solo io. Luca, Natalino, Gianni, tutti spariti, sì. Stanno avanti, il mondo. Voglio preguntare. Io già ci sono qua. Non hai sentito l'amico che stava chiamando alla Sardegna? Ho capito chi era. Brecco. Ecco, brick. Buonasera a tutti, buonasera. Gianni Rubrofetto da questa parte. Mi si va un controllino, chi è che me lo dà, grazie. Io, mi offro io. Ok, Riccardì, mi dai rapporto e segnale e radio? Buono, Santiago 910 Radio Super 5, ottimo, ciao Gianni. Ciao Riccardo, buonasera. No, ho fatto una... sistemato meglio l'antenna, volevo vedere se era cambiato qualcosa. Qua sta arrivando magnificamente bene. Ciao Gianni, Natalino Alfa 1 da questa parte. Ciao Natalino, salutoni da questa parte, buonasera, ben sentito. Ho sistemato un po' meglio l'antenna, volevo sapere se c'era qualche differenza rispetto a prima. Però mi sa tanto che è tutto come prima, dai. Ciao Gianni, adesso sei 9:20. Ciao Luca, buonasera, grazie. La radio è sempre la solita, vero? Via. Sempre la solita. A me come mi stai ascoltando? Che sto usando il 3009. 3009 ti sei comprato? Via. Un burro. Segnalone e radio Super 5. Mezzugai. E a me come mi stai ascoltando? Gianni, sto usando il 3009 pure io e me lo sono comprato omologato per poter parlare qua. Capagata. Adesso, una busta ne avete comprato di questo 3009. Dove c'erano gli sconti? E io l'ho comprato nuovo e l'ho pagato 162 spiccioli, spese di spedizione comprese. E almeno l'omologato, vabbè, non rubo i Ducap, cosa si no per dire l'omologazione, gli ho attaccato le MB+4, come mi stai ascoltando? Ti ascolto molto bene rispetto ai tempi passati, la decisamente molto meglio. No, già è un bel apparecchietto, dai, si fa sentire bene. E anche Luca lo sento molto bene, dai. Tutti apprezzati. Anche Gianni ce l'ha, questo qua omologato così. Quindi abbiamo io, Luca e Gianni, mi sa. Bene. Dai, il mio si assomiglia parecchio, dai. Il Super Jupix è molto simile, dai. Lei media? E infatti, stai facendo benissimo. Bene, bene, arrivano gli spagnoli a bombetta. Tutti amplificati. Mia Vittorio, mia per Vittorio. Stando la nave. Ma l'avete mai riconosciuto, Ci conosciamo qualche anno, Vittorio, cosa ne dici? Comunque, come sempre questo momento, salutoni a tutti, vai a dire tu. Ciao, saluto Vittorio, hai sentito, Ciao, avanti per Vittorio. Ciao Vittorio, Natalino Alfa 1, buonasera. Ciao Vittorio, Riccardino Alfa 21. Ah, ciao Riccardino e anche Natalino, dai. No, l'ho acceso un attimino per far funzionare questo apparecchietto. Non so se sta funzionando bene, ditemi qualche cosa. Magari lo voglio sapere da Luca, sei Luca? Sì, sì Vittorio, segnale 9, fai che sia 9:10, là. Facciamo subito un po' cane morto. Ti ascolto abbastanza bene, con un po' di eco. Poi mi conta cambi il segnale. Vediamo un po' Natalino come ti ascolta. Avanti Natalino. Io l'ascolto bene lo stesso, non c'è problema, dai. Cioè, Riccardino, me l'ascolti a Vittorio tu? Lo stesso, sempre bene, lo ascolto, sta andando bene Vittorio. Grazie, in questa antenna che ho purtroppo mi è caduto un radiale e c'è solo il radiale, però già sta funzionando, mi sto accorgendo che già sta andando bene, via, tutto qua. E tu Riccardino, com'è la situazione? La situazione è così, adesso sto usando un po' l'omolovasto e l'antenna Blizzard. Comunque no, anche se con il radio sta andando bene, qui sei 9.5 e la radio è Super 5. E come ho detto, sto usando l'omolovasto e l'antenna Blizzard. Ho capito, già sta andando bene, anche la tua radio è bellissima, forte e chiara. L'importante è questo, capirsi, perché quando uno modula deve essere in condizioni anche di farci ascoltare e sentire bene. Quando è basso di radio, eccetera, eccetera, evidentemente le apparecchiature non sono molto, molto belle, fiorenti. A fianco. Ok, va bene, cambio per una tagliina Alfa 1. Signor Volpe, via, già vedo del Volpe. Ciao Vittorio, ben sentito, buonasera. Buonasera anche a te, già, eravamo da molto senza sentirci. Non l'ho mai più acceso di qua, mi è caduto un radiale, pensavo che le stazionarie fossero tante, invece lì sta andando bene, via. Oh Vittorio, se a me ne sono caduti tre radiali, stavo uscendo con due radiali. Era uno e uno di stazionario, andava benissimo lo stesso, la Mantova 5, se tu hai quello. No, io la uso. E vabbè, è sempre quello insomma. Sono antenne quasi indistruttibili, radiali, poi li puoi sempre rifare. Li compri a Città Mercato, li fai su misura e li piazzi, li compri il gommino per metterlo davanti, per farla come si deve. Ma io ho capito, no, il problema è che le cornacchie che sono posate me l'hanno strappato proprio nel moto, ha strappato anche l'alluminio, perché non si può più mettere, ce l'ho nel tetto, non si sono neanche salito a recuperare, è caduto e basta, quindi è tre radiali adesso. Ah, hanno proprio rotto l'inserto che c'è per mettere il radiale. Sì, e lì dove entra in una, nel foro, dove incastra, lì è proprio là strappato l'alluminio, non si può più mettere. E neanche facendo un altro foro, non viene bene, ha rotto proprio il moto. Sì, ma quello lì basta buscarlo, ci sarà qualcuno che ce l'ha magari e te lo dà. Beh, non è facile, dai. Ok, abbiamo lasciato il parcheggio, andate lì a tempo. Cappa, non ci siamo né più visti né più sentiti, Vittù, cavolo. Qua c'è questo microfono che non sta andando giù. Hanno 2, 3, 1, 2, 3. Non sta uscendo adesso. Già stai uscendo. Io ti ho sentito. Questo basta, bassino. Forse è il microfono che non sta uscendo. Stavo dicendo che non ci spasso ogni tanto lì, ma non vedo neanche la macchina, voi come non si abiti più lì. Ma sa che ti ne vari e soni. Agustia. Beh, mi pare a me. Io so cosa sarei, ma non indovina chi subunto canto bassi tu. E anche perché viene male, tu non si vede pure dalla strada. Infatti viene male. Tu invece suoni, io ti apro, ci prendiamo il caffè o quello che vuoi e non c'è problema, caro Vittorio. Magari mascherato. Ok, dai, a te già va. Ehi, allora io ho avuto lo stesso problema, tu pensa che io ho cambiato il radiale all'antenna per 2-3 volte e praticamente la terza volta poi mi sono rotto le scatole, l'ho buttata giù e mi ho preso l'antenna nuova, però gli ho messo anche la lenza per tenere il radiale, beh, me li hanno rotti lo stesso, tutti dicono le corna che non li rompo, poi già li rompo, ma tutti digni, come spiccano il volo, danno lo slancio e ti spaccano il radiale. Perché pesante la cornacchia, capito? Se cominciano a essere due, gli slanci sono tutti e due, della porta, quindi il peso stesso, la strappa, tutto qua. E poi adesso si vedono più cornacchie del solito, prima non si vedeva tutte queste cornacchie, adesso dalle 4 di mattina la rizinco, uso sempre crac, crac, crac, crac, mamma mia! E ti devo rubusiri, quello di Salino. Ma tu sei campagna, quest'estate campagna già l'abbiamo fatto. Ma qua in città se ti affacci col fucile alla finestra o con la carabina che ti vedono ti denuncia. Lo so, purtroppo. No, io ce l'ho la carabina, ma non la uccide, l'ho provato. La colpisce là, sembra di gomma quella la cornaccia. Gianni! Eia! Devo sparire con la mia nella busta di brutto. Mi ho comprato anche un cannocchiale nuovo per la carabina, quella che ho io. Ce l'ho il cannocchiale, è a Puglia, ed è precisa anche, però non ce la fa ammazzarla, perché non la puoi sparare da 5 metri, è una che è lontana, e la carabina non è che a 20 metri già è lontana. No, la sa BD, la carabina se è buona, io ce la diano a 22, altro che quello fa. E se non lo spara con la mia che è calibro 22 e batte 1500 metri? A vederla se non ammazzi, col cannocchiale la metti al centro, boom, e nella buccia. E io ce l'ho lo stesso il cannocchiale. Lo so. Io adesso la mia me la devo piazzare, tanto il laser ce l'ho per tararla. Ehi, alla mia si vede anche di notte. Poco l'antenna, la fionda a casa, o il mirino anche, o anche di babbo la cara. Ma io te la compro e cambi la mia, la diana 22, me la sto vendendo. Ce l'ho già, mi va bene questa, che la so ormai usare. Per te la mia è un po' pesante, la mia è robusta. No, la mia mi piace perché sono di quelle un pochino sempliciotte, ci metti il proiettile, cioè abbassi la canna, metti il proiettile e la rialzi, non è una cosa difficile. E anche la mia fa così, solo che c'è la sicura da togliere prima di sparare. E anche la mia senza sicura. No, la mia entra in automatico la sicura, come tu la abbassi per caricare entra la sicura, poi chiudi, per sparare devi abbassare la sicura e sparare. È identica, è la stessa cosa, anche la mia fa così, quella di babbo fa così. Ma come ce l'ha il manico? Il legno? Sì, il legno, tutto il legno. Ma è anche la mia così. Io ce l'ho dentro la custodia, nuova, anche se è datata è nuova. Ma non è che è la stessa, quasi, boh. La mia è la Diana 22. La marca. So che la tua ha un altro mirino, io ho due mirini per due calibri di proiettili. No, io ne ho uno che puoi vedere anche di notte, si illumina. No, io non ne uso di solito il cannocchiale, sono abituato ad appoggiare, come dire, appoggiare l'occhio. Scappa, dai. Sì, vabbè, ma quando fai rassegna, roba così, lo usi. No, io quando lo uso per praticamente mi sono messo un pezzo di polistirolo a 100 metri da qui, mi metto con il tavolino, mi piazzo e inizio a sparare a centrare. Lo so, io anche io faccio così, in casa lo faccio. metto polistirolo, dietro ci metto un coso di lamiera per non bucare il muro, e una volta mi ha trapassato tutto, l'ampulla, la bottiglia di plastica, il polistirolo, e ha toccato anche il muro. Ho capito, io ho paura, un giorno ho provato a mettere una pentola con un tirassegno, mai più, cioè praticamente la pentola te lo spingi indietro il proiettile e te lo riporti indietro come se fosse al contrario. Che fai in culo là, a cambiare da te. No, meno male non mi ha pigliato, però cavolo, no, meno male, infatti non ne ho più usato padella vecchia, avevo una padella vecchia che si è abbruciata tutto facendo il soffritto. No, adesso metto il polistirolo e davanti il tiro a segno, dietro non metto niente perché c'è la pietra, tanto. No, lo sai cosa devi mettere? Le lattine della Coca-Cola vuote, le riempi di acqua e quando le colpisci esplodono e fa un bel effetto. Ah no, le bottiglie d'acqua non ci ho mai provato. Ho provato di solito le bottiglie dell'acqua, quelle che ho presente, che le avevo prese un giorno per fare un esperimento, le avevo prese due, e sono di quelle che usano tipo, che sono nei distributori americani, che sono lunghe alte. Ho capito, sì. No, io ti dicevo, le lattine della Coca-Cola, dopo che bevi la Coca-Cola ci metti l'acqua dentro lì e le usi come tirassegno e spari quelle che esplodono, quando tu le spari esce tutta l'acqua fuori, naturalmente devi mettere in un posto dove non fai danno, dove non bagni altra roba, dai. No, qui anche non bagni niente, come ho detto è in mezzo al niente, puoi sparare dove vuoi lì. Ehi, riprendi una tariffa. Quanto mi piacerebbe averla una di quelle a piombini così, in modo che in campagna mi possa divertire. Ce l'avevo io bella, ragazzi, perché era potente quella che avevo io, te la ricordi? Ragazzi, entravo a salutarvi, dai. Grazie al controllo e ci sentiamo nei prossimi. Un saluto a tutti quanti della ruota, che adesso non mi ricordo chi ci sia. Comunque, dai, alla prossima. Ciao Gianni, speriamo che ti faccia sentire più spesso, ti fai desiderare. Ciao Gianni, alle prossime, come hai detto Natalino, fate ascoltare più spesso. Va bene, dai, alla prossima, ciao. Ciao John. Ciao Gianni, ok, bene, sentito. Ma stanno arrivando a modulazione 9.30 qua, proprio gli spagnoli mi stanno spaccando. Stava parlando Vittorio, vi siete sovramodulati. Riprendi Vittorio. Dicevo che stanno arrivando a modulazione 9.30 qua degli spagnoli. La cosa è incredibile, a malapena si riesce a superarli, ma proprio in estremi. Lo so, la propagazione, quando c'è la propagazione, lo sai com'è Vittu, è un macello. A forza, il video è facciamo dire che si arriva alle 9.30, aspetta. Lo sento io che c'ho l'antenna a massa, Vittu, figurati. Vabbè, io sono aperto qua, quindi, ma sono forte maledizione, c'è una propagazione pazzesca. Infatti. Vabbè dai, io rimango un po' in quel Rix e vi saluto tutti. Ci sentiamo alle prossime, che mi accendo il computer, devo fare cose. Ah, signore. Quello di aereo caio io. Ciao Natalino, alle prossime. Ciao Ricca. Buon proseguimento di serata. Va bene, tu garpeavi, posso? Gianni, ci sei tu ancora? Cerveza. Oh Ricca, ti sto mandando una cosa. Manda, sono qui. Mi aspetto un attimo, Ricca, che mi hanno chiamato, scusa. Ehi, tanto sono qui, fate. Gianni, è arrivata, sta caricando. Ah, eccola, bella. Gianni, ti sto chiamando la frequenza. C'è anche te, sono dietro, l'hai visto? Controllando. Aspetta che ti faccio un altro affogo. Cosa è? Guarda il dito. Ebbene, Cardi, vista dai. Sì, l'ho vista. Che era che è, beh. Ti c'è rimasto, sono scappati tutti? Aspetta. Attento, mio hermano, se va scusiarla Sardinia delante. No, no, va, ciucucu. Ehi, sono in qualsiasi locale questi. Mi piace il 10 poi. Buonasera a tutti, io sto cucinando, sono entrato per un saluto. Ho sentito che parlavate di carabine e quindi mi interessava l'argomento. Ma Toppi se per tirare non le stai, Marco? No, è stata una cosa sporadica, mamma mia, quella volta. Che uscivano dalla tettoia del palazzo di fronte, una specie di cantina. Ma tu devi vedere, con la telecamera infrarossi, vedevi tutti questi puntini sul muretto, anche sulla tettoia di fronte, tutto pieno era una cosa impressionante. E lì praticamente puntavi la fila e tiravi, solo che era inutile. Poi hanno sanato tutto, hanno bonificato tutto, hanno ristrutturato tutto e non ce n'è più visto neanche uno. Kappa. E allora tiravi i gatti così. Poveracci. Ehi, non mi parla dei gatti, già che c'è la mia che è 3 giorni che c'è dei vomiti a vuoto, oppure il poco che mangia non riesce a tenerlo, e quindi domani mattina cerco di prendere appuntamento con qualche veterinario, vedere se può essere tutto o può essere niente, però siamo già preoccupati, giustamente. Oh Marco, dimmi tu. Vai da Coso, in Viale Caprera, che bravo. In Viale Caprera? Sì, potrei provare, consultare. Sapete gli orari, per esempio sabato riceve. Se vuoi ti do il numero, si chiama dottor Tiana, è bravo, a me mi ha controllato e non mi ha fatto pagare niente, però domani mattina ho una visita, un ecco, comunque c'ha una lastra deve fare, da per vedere un po'. Ecografia, eh? Ecografia? Ecografia, come stavo chiamando, sì. Domani mattina non va a mettere l'appuntamento, se vuoi io ti lascio il numero, lo chiami e dici che te l'ho dato io. Vediamo, perché conosciamo gente anche la veterinaria, Lu. Ho sentito che non sta bene il tuo cane, qualcosa anche di un po' serio. Gli animali quando iniziano così, cioè fosse stata una cosa tipo la gatta, no, mia, che magari mangiava un ragnetto, al limite vomitava qualche volta, cioè sul momento l'avrebbe fatto male, ma è già 3 giorni che vomita a vuoto. Vabbè, non vuol dire nulla, può essere tutto o niente. Purtroppo gli animali si ammalano come le persone, poi loro non ti possono dire cosa si sentono, capito? Non parlano. Va bene, dai, riprendete che sono i fornelli. E quindi cuore X per me. Saluto anche Vittorio, sito un Vittorio, non è Vittorio Giove, però chi è? Vittorio Volpe? Interrogativo. Sì, Vittorio Volpe. E poi c'era Riccardo, ho sentito. Va bene, dai, riprendete tra di voi, io sto cucinando. Ciao, a dopo. Ciao. Guarda Marco che anche i gatti mangiano l'erba e poi vomitano quando non si sentono bene. Magari anche quello, non lo so se lui abbia mangiato erba gatta o qualcosa del genere. No. Questo non esce da qua, non lo facciamo uscire più. Infatti non si sa il perché, poi fa le fusa, tutto quello che vuoi, adesso è un po' abbacchiata perché sai, vomiti una volta, due, tre, alla fine è un po' provata da questa cosa, però sono già 3 giorni, quindi mamma mia, allora, vediamo cosa ne esce. Ma mangia? Sì, i suoi croccantini li mangia, perché a lei piacciono i croccantini solo. Raramente mangia umido, no? Il problema è che il poco che mangia non lo tiene, perché poi magari dopo un'oretta vomita e ho visto che c'è il cibo masticato, capito? Capito. Sono come le persone, purtroppo è così. Bisogna, quando si hanno si devono curare, perché finché si guasta una macchina e non c'hai soldi, la metti da parte, non la usi per un po' di tempo, se quando esci per ripararla, ma gli animali non puoi trascurarli. Eia, Adesso vediamo se le faranno una radiografia o un'analisi del sangue, non so. E lei fa le fusa, mi segue, gioca, cioè si fa sculacciare sul sedere, si struscia tutta. Però un po' non è normale questo vomito. Poi non ci sono peli, è succo gastrico. I vomitini a vuoto, capito? Succo gastrico. C'ha proprio la, dallo stomaco arriva la, le contrazioni, no? Per, come per liberarsi di un qualcosa che però non, non c'è. Quanto tempo ha? Ho mangiato qualche cosa, si è agoiato qualche cosa. Il gatto di mia sorella l'hanno dovuto operare perché c'era la canna da pesca mio nipote intelligente, l'ha lasciata con la mano attaccata, già si è attaccato l'amo, l'hanno dovuto operare. Luca dovrebbe avere un 6-7 annetti, 6 anni fai, dai, è giovane, non è che... L'altra è più vecchia l'altra gatta. E vabbè, dai, adesso non mettiamo il carro davanti ai buoi e vediamo cosa ne esce. E appunto, magari non è niente, magari è un po' di indisposizione, succede anche a noi, dai. Il fatto di diarrea, ma anche diarrea c'è. No, non ha né dolori, cioè solo questo vomitino, però cioè qua non abbiamo sostanze strane, chimiche, tutto chiuso in bottiglia, disinfettanti, non credo che possa aver mangiato qualcosa, ma poi non durerebbe 3 giorni. Va bene, dai, inutile dilungarsi, dai che mi bolle l'acqua. A dopo se sento, dai, ciao a tutti, ciao. Riprendi Luca. Comunque io come veterinario ti consiglio Fracassi, quello che vado io. È molto bravo, è su al monte dove c'è la CRAI, la traversa prima. È molto bravo. Oh Gianni! Eia. Lo conosco, è il nostro veterinario quando sono cose più importanti che mamma non può fare, lo conosciamo bene e ci ha fatto anche molti favori, si chiama dottor Nico Fracassi e l'altro è Fabio. Cappa, sì. Luca. È una persona in gamba veramente. Mandami il numero via WhatsApp, dai. È gentile, no? C'ha dei modi tranquilli. Persona come si deve. No, sì, è tranquillo. Io vado lì da tanto tempo, prima andavo via Pascoli, ma quelli ti spennavano, ogni volta che andavi se erano 70 euro, anche se portavi il cane a controllare dopo una cura che ti davano, ti facevano pagare. Invece il dottor Fracassi quando vado mi dà una cura per dire, non lo porti a controllare, lo controlla e mi dice, vabbè, dai, già sta andando bene, quanto gli devo dare? Vada tranquillo. No, lo so, è tranquillo, è sempre disponibile. Sì, no. Già in gamba, è molto in gamba. Marco, siamo in due che stiamo votando Fracassi, quindi mi sa che ci conviene lì. No, dai. Oh, non ne ha bisogno di pubblicità, è sempre pieno. No, già lo so. Di solito molti non vanno fuori Sassari per fare tutta quella strada, meglio vanno in ambulatorio. Quello è sempre pieno di gente perché è bravo proprio, come ho detto. Io ho trovato uno l'altra volta che ci aveva Barboncini e veniva da Olbia, perché a Olbia ha detto che le hanno rovinati i cani, quindi ha detto che viene sempre qua, ho conosciuto a Fracassi, una volta che è venuto da un amico l'ha portato da Fracassi e da quel giorno lì preferisce fare il viaggio da Olbia a portarli a lui. Ho capito. Allora, la prima volta che c'ero io è uscito un tipo tutto contento, sembrava che gli fosse nato un figlio. Evviva! 4, ne ha 4, evviva! Dunque contento. Poi, sembrava un ragazzino. Come abbiamo le patatine. Luca, scusa, te lo dico, ma tu stai sempre mangiando. Allora, io ho preso 145 kg. Ma non di cazzare. Sono magrolino. Ma non dire fesserie tu. Poi sono abbiamo visto la foto su WhatsApp. Sono io quello. Io ne pesavo 89 quando sono uscito all'ospedale, adesso ne peso 98. Purtroppo che da diabetico soggetto, A che cosa? A ingrassare. Perché il diabete ti porta a fame, ti fa venire la fame morbosa, che tu cerchi di non mangiare, ma devi uscire per non mangiare, fare altre cose e allora non mangi. però se sei in casa e gusta quello, gusta l'altro, mangiati cioccolate, fai lì, sei guidato, è sempre qualche cosa. Ho comprato questi cracker, Luca, recuperati di cioccolato, ma sono una favola, mi piacciono un bel. Sì, ma anche l'insulina ti fa venire fame, come ti fa, me l'ha detto il diabetologo a me. Non so, e poi più ne fai ti fa ingrassare anche. L'insulina più ne fai più ingrassi. Oh, oh.